L'Italia vista dallo spazio di Achille Corea e Fabrizio Intonti. Buon pomeriggio a tutti da Achille Corea, benvenuti. 16 agosto 2012, questa è Radio 24, questa è l'Italia vista dallo spazio. Oggi io vorrei sentire soprattutto le ascoltatrici di Radio 24, anche se ovviamente siamo aperti a tutti gli interventi al 349-238-6666 e soprattutto all'800-24-0024, perché oggi cerchiamo un maschio italiano da mandare nello spazio in rappresentanza della popolazione maschile italiana. Quindi tra poco cerchiamo un uomo. Posto numero 13, in attesa di assegnazione. Avete passato bene il Ferragosto? Sì, spero di sì, dai. E ieri noi abbiamo mandato un po' di cartoline insieme ad alcuni ospiti, cartoline dall'Italia. Abbiamo sentito racconti di luoghi e paesaggi, devo dire, molto belli. E alla fine bisognava sceglierne una di queste cartoline. Antonio Maccioni ci ha parlato del deserto di Piscinas ed è piaciuto molto. Allora, nella nostra navicella spaziale, insieme alla teglia di parmigiana di melanzane, ad Alex Zanardi, il CD con rumore del motore della 500, il DVD di Emarcord, una parrucca spettinata, una copia della Divina Commedia, una pizza, un centrotavolo, una scarpa da donna, la scena di Totò Peppino a Milano con il Vigile, il 45 giri di Io non mi sento italiano, una stecca di biliardino, ci mettiamo anche la cartolina di Piscinas in Sardegna. E adesso andiamo a cercare un uomo. Posto numero 13, assegnato. Guarda, guarda, forse è nascosto tra noi. Forse qualcuno di noi. No, no, no. No, no, no, no, no. Il mio uomo non si trova dovunque. Il mio uomo non è un tipo qualunque. Cerco un uomo che da sempre ho sognato. Questa era Sandra Mondaini, che nella sigla di un varietà del 1977 che si chiamava Noi No, cercava un uomo e, stando a quanto cantava, lo cercava non per tutta la vita. Probabilmente 35 anni fa era una richiesta che faceva scalpore, vado a occhio, perché è un periodo di cui non ho nessun ricordo ed era un periodo in cui credo che i rapporti uomini-donna fossero completamente diversi. Io sono nato a metà degli anni 70 e nei primi anni della mia vita, figuriamoci, leggevo i fumetti, guardavo i cartoni animati, poi a un certo punto ho iniziato, attirato soprattutto da quelle copertine in cui c'erano sempre delle ragazze poco vestite, a leggere i giornali dell'epoca, tipo Panorama, L'Espresso. Vi ricordate quando Panorama e L'Espresso mettevano delle donne poco vestite in copertina per attirare dei lettori? Veramente anni e anni fa, altri tempi. E io, insomma, ho iniziato a leggere quei giornali ed era già la metà degli anni 80 inoltrati. Ma quando ho iniziato a leggere questi giornali c'erano già i servizi sul maschio in crisi. Io non ho ricordi precedenti. Da che io ho memoria, da che io mi ricordo di aver letto un giornale, il maschio italiano è in crisi. È senza entità, senza autorità, senza un posto in cui stare. E ormai siamo abituati. Io il maschio lo concepisco solo così. Siamo in crisi. Però che dobbiamo fare? Il maschio italiano comunque ha una sua fama nel mondo, ha una sua nomenclatura. Ha, diciamo, un marchio, un brand, direbbero quelli bravi, e per cui noi, comunque, un maschio italiano nella nostra navicella virtuale spaziale ce lo vorremmo mettere. Non vi preoccupate, poi un giorno di questi ci mettiamo anche una donna italiana. Però io oggi vi chiedo questo: 800240024, chi mandiamo in rappresentanza del maschio italiano nello spazio? La prima persona a cui lo chiediamo ovviamente è una donna, è una famosa blog e opinionista, è con noi Selvaggia Lucarelli, benvenuta. Ciao Achille, ciao. Allora, secondo te, io la prima cosa che mi chiedo è che non so se questo momento dell'anno è il momento migliore in cui scegliere un uomo italiano, cioè d'estate, non so mai se noi diamo una bella immagine. No, si dà il peggio, direi di no. Contrariamente a voi donne. Qualche passatempo, qualche intervallo, ma insomma l'uomo per la vita, dubito. Secondo me ci sono indizi fuorvianti d'estate, capito? Quindi... c'è il Borsello, i suoi finocchietti, c'è roba che confonde. Non so se è un'impressione mia, ma secondo me voi arrivate sempre all'estate magnificamente e noi ci arriviamo sbracati e impreparati in maniera sistematica. Sì, sì, spiaggiati sulla battigia proprio in una maniera impresentabile, è vero, è vero. Senti Selvaggio, adesso astraiamoci un attimo dalla stagione, come sta messo il maschio italiano? Allora, se dovessi parlarne facendo, come dire, delle note autobiografiche sarebbe una tragedia, e quindi ne parlerò facendo partendo dalla mia esperienza personale, ma devo dire piuttosto male, ma non lo dico perché insomma l'esperienza personale condizioni l'opinione, ma proprio perché ho cominciato a fare una sorta di statistica e di catalogo del maschio italiano, perché sono single da un bel po' e quindi diciamo che qualche tentativo di uscita ne ho fatto, per cui comincio ad avere dei parametri seri, capisci, scientifici. E qual è diciamo il tuo ritratto sociologico? Guarda, intanto io parlo del maschio diciamo sopra i 30, ecco, e più vicino ai 40, questo lo voglio dire, probabilmente a 20 anni sono più puri. Si dice spesso spaventati, no? Che è un termine un po' abusato, ma in realtà fanno outing, perché ogni volta che tu provi ad uscire con un maschio di quell'età, lui la prima cosa che ti dice è: ho paura, e le paure sono nella serie perdere la mia indipendenza, perdere la mia libertà, perdere i miei spazi. A Milano si usa molto dire i miei spazi, cioè gli uomini hanno bisogno dei loro spazi. Allora, di solito è la PlayStation, secondo me, intendono la PlayStation come il loro spazio. Sì, quello dal divano al televisore. No, è spazio. Infatti l'uomo in milanese ama molto il loft, io credo sia proprio un fatto di spazi. E poi spesso cioè, la loro ricerca della donna si basa su questo, cioè non cercano più la donna attraente, intelligente, che ne so, seduttiva, eccetera. No, tu gli dici: ma tu che cosa cerchi? Cioè, qual è la donna? Fa: ah, io ho una che non rompa le scatole. E di solito dico un'altra parola. Cioè, quello è diventato, capito, quello che cerca in una donna dopo i 40. Una che non rompa le scatole, che è proprio la mortificazione della donna, della femminilità, del rapporto di coppia. Cioè, se ci pensi è di una tristezza infinita, come definire. Però tutti gli uomini sopra i 40 ti dicono quello, cioè la donna che disturbi il meno possibile. Secondo te è un'osservazione che è anche un po' condizionata dal fatto che suppongo abbia una ci sia un ruolo rilevante di internet, di Facebook e del modo in cui ci mostriamo e approcciamo tramite i social network? Ma non lo so, questo ha reso sicuramente tutto più, non so se più facile, sicuramente molto più confuso, sicuramente meno sudato, meno desiderato. Cioè ormai prima, voglio dire, se volevi arrivare a qualcuno che ti piaceva dovevi fare una gran fatica, a meno che non fosse il tuo vicino di scrivania, insomma. Quindi se non ne valeva veramente la pena non lo facevi, no? Cioè non lanciavi l'amo a meno che una persona non ti facesse impazzire. Oggi lanci l'amo anche se una persona ti piacicchia ma non sei manco convinto, è un attimo, cioè basta un po', che capito? Che io non ho ancora capito bene a che cosa serva, quindi manco pensa io. Eppure penso bene o male di capirne un pochino, di bazzicare un pure pochino su internet. E poche mi dicono è tipo una pacca sulla spalla, ah, oh, ma, è una cosa così. Ma quando mai uno ha approcciato con una pacca sulla spalla? Cioè, no, che io, a quel è una punto, caponata mostruosa. A quel punto è il fischio per strada. Cioè, esatto, è il fischio del pecoraro, sì, ecco, il poche lo potremmo riassumere così, capisci? Dai, Selvaggia, a questo punto devi, come dicono diciamo quelli che sanno bene l'italiano, uscire un nome e devi dirmi il nome diciamo che potrebbe simboleggiare il maschio italiano da salvare nella nostra navicella spaziale. Il maschio, ma diciamo un uomo italiano che salverei in questo momento, attenzione, è Giuseppe Crusani. Chi? E io sono Giuseppe Crusani, se vuoi. Guarda, io sono contento perché comunque ci viene anche facile, cioè non dobbiamo nemmeno uscire dalla sede per andare a convincerlo, capito. E mandarlo in radio, cioè dobbiamo solo spostarci da Roma a Milano, però potrebbe sembrare una scelta di convenienza, perché? Spiegacelo. Di convenienza, è che non mi conviene mica a me, certo. Beh, però sai, in radio, cioè non... Di convenienza, no, non c'è, guarda, non avevo neanche pensato, vedi. No, in realtà lo salvo perché nel panorama del maschio italiano mi sembra uno un po' irriverente, coraggioso, a tratti spaccone e divertente nel suo essere strafottente, alle volte insopportabile. Cioè, a me piacciono le persone che si espongono, che ci mettono la faccia, quelle che sanno essere anche scomode alle volte, o comunque che hanno il coraggio di dividere, no? Di non piacere. Quindi... È il nostro Mourinho? È il basso Muri, bravo, sa farsi odiare, sa farsi amare, comunque sia non lascia indifferenti, non sono una da sfumature, allora insomma in qualche modo ho fatto un nome che mi potrebbe un po' somigliare come indole, ecco tutto qua, mi piace l'idea di fare un nome così. Va bene, Selva, noi... il solito uomo che mi fa ridere, capito? No, l'uomo che fa ridere, guarda, io non ci credo più, poi non so se altri maschi sono ancora convinti che volete l'uomo che vi faccia ridere, quindi. Paolo Villaggio potrebbe essere un modello. Però io sono stata 7 anni con un comico, quindi io tutto sommato quando lo dico sono anche seria, cioè non è che lo dico per dire, per cui sono stata 7 anni con Max Giusti, quindi l'uomo che mi faccia ridere l'ho già avuto. Okay? Adesso vuoi l'uomo che ti dica basta. Che mi faccia incazzare. Va bene Selvaggia, ti ringraziamo per questa scelta, ci grazie. Viene comodo, ti ripeto, lo portiamo, vediamo cosa dicono gli altri ospiti e le altre ascoltatrici. Grazie Va Selvaggia bene. Lucarelli. Grazie Achille, un bacio, ciao, ciao, ciao. Ciao. Io voglio un uomo, uomo, che mi maltratti un poco, che mi dica le bugie più inverosimili e pretenda che li creda. Devo dire la verità, mi ha un po' spiazzato Selvaggio Lucarelli con la scelta del nostro Giuseppe Cruciani, però va bene, questa era la prima scelta. Mi raccomando, quando scrivete al 349-238-6666 mettetemi anche il vostro nome, così intanto capisco se siete uomini o donne. È arrivato un SMS che dice: voto Alessandro Sallusti e non sono la Santanchè. Questo qui io mi sentivo assolutamente di portarlo. 800 24 00 24, anche per dirci, per votare contro, anche per dirci no, io quell'uomo proprio non lo sopporto. Intanto io passo alla nostra seconda ospite, è una blogger, è una scrittrice, è nota in rete come dottoressa Dania. Daniela Farnese, benvenuta. Ciao, ciao Achille, buon pomeriggio. Ciao, eccoti. Hai un libro in uscita, che è proprio un romanzo, che si chiama Chanel numero 5, se non sbaglio. Sì, Via Chanel numero 5. Via Chanel numero 5, però hai scritto l'anno scorso un libro che si chiama 101 modi per far soffrire gli uomini, siate stronze, siate cattive, siate spietate, il sottotitolo. Io ti volevo chiedere come prima cosa, c'è bisogno, cioè c'è proprio bisogno di industriarci per farci soffrire? Io parlo per me, già tra la crisi e la campagna acquisti del Milan soffro abbastanza, se posso assicurarvelo, serve proprio? Ma allora, premetto che non mi ha portato moltissima fortuna con gli uomini quel libro, incredibilmente, quindi non so se vogliono seguire i miei consigli, però sì, secondo me un po' ci sta, nel senso che la vendetta a volte fa bene, essere un po' cattive può essere una scelta vincente, però non troppo. Ce lo meritiamo? Il maschio italiano se lo merita? Ma sì, dai, a volte se lo merita, ma anche per lui, cioè per essere stimolato, per essere incoraggiato a diventare una persona migliore. Ho capito, quindi diciamo è una carota e la frusta, no? Una sofferenza educativa. Ma in un periodo in cui comunque la letteratura è piena di libri in cui gli uomini fanno soffrire le donne, cioè magari io prendo anche il lato opposto. E, ti volevo chiedere, prima di arrivare alla tua scelta, anche perché mi sa che c'è, in realtà è una cosa che ci interessa, però ci interessa un po' meno di prima. Volevo proseguire sul discorso fatto prima con Selvaggia. Secondo te internet, la tecnologia, Facebook e tutte queste cose qui ci hanno aiutato o ci hanno rovinato? Ma secondo me ci hanno aiutato, secondo me hanno un po' eliminato le distanze, hanno un po' accorciato i tempi. Certo, allora io sono abbastanza a favore del corteggiamento vecchio tipo, quindi non so, mi piace l'uscita a cena, il mazzo di fiori, sono un po' all'antica in questo. Però secondo me ha abbastanza alleggerito la pratica di seduzione, più che altro adesso è una scelta molto più ampia, cioè io penso che Facebook sia un grandissimo catalogo, tu te lo studi, scegli e vai a colpo sicuro. Se non ci fosse prima... Photoshop sarebbe un catalogo più veritiero. No, infatti Dania, l'ho scritto anche oggi, se siete fuori forma evitate magari la foto in spiaggia, perché ecco, quello è proprio un disincentivo fortissimo. L'Italia vista dallo spazio. Ci piace quest'uomo, come lo volete, l'uomo italiano 800240024. Oggi mandiamo un maschio in nostra rappresentanza. Cioè, no, scusate, stavo guardando un altro SMS. C'è tutta una cosa che per una certa piega del discorso Annalisa scrive che non manderebbe Cruciani ma Sebastiano Barisoni, che manda sexy la finanza. Io queste le leggo, così poi anche negli altri programmi sanno che cosa pensano le nostre ascoltatrici come Annalisa. Dania, eccoci. Eccoci. Allora, quale maschio scegliamo in rappresentanza dell'italiano? Allora, senza nulla togliere a tutti gli altri maschi che sono sempre favolosi, però io ne mando uno che ha tutti i talenti, è bello, è bravo, intelligente, brillante, che è Filippo Timi. L'attore Filippo Timi, come mai? Attore, regista, scrittore, sceneggiatore, perché riesce a fare tutto, anzi è anche fastidioso nei suoi talenti, perché non c'è una cosa che sbaglia. Quindi secondo me è un bel rappresentante del genere maschile italiano. Lui ha anche qualche difetto, diciamo, no? La balbuzie combattuta con la sua scelta di essere attore. Cioè, queste sono cose che danno anche magari qualcosa in più? Sì, che lo rendono più umano. E poi c'ha questa balbuzia così sexy, quindi... La balbuzia sexy è la prima volta che la sento, però... La perdoniamo. Beh, ma sai, nei difetti che tu trovi le parti più interessanti degli uomini, altrimenti non ci accoppieremo mai con nessun maschio, perché sai che la categoria è fallace, quindi... Sì, sì, sì, sì. Ma guarda, io oggi veramente mi aspetto di tutto, non nemmeno difendo, non è ovvio. Basta, tanto... ti arrendi. No, tanto settimana prossima facciamo la puntata sulle donne, io segno sarà tutto. Sarà un disastro. Senti, no, faccio una notazione, perché io di solito ho in questo programma un problema ad arginare diciamo, una certa nostalgia quando parliamo delle cose a salvare dell'Italia e i film di Totò, figure, tutta roba bellissima, i film di Totò e Fellini e i dischi di Jimmy Fontana. E cioè, la Dolce Vita. Se la Dolce Vita... State scegliendo dei maschi vivi, cioè nessuno vi aveva detto che dovevano essere per forza vivi, invece state scegliendo delle persone che tutto sommato potremmo anche incontrare per strada. Ma questo dovrebbe essere un vantaggio, cioè vuol dire che la razza ancora non si è estinta, quella buona, ce n'è ancora di maschio italiano valido. Non soffriamo tutti il confronto, a tutti, io mi tolgo, guarda, il confronto con Mastroianni, eccetera, no? Allora, vabbè, Mastroianni rimane il mio uomo ideale, però diciamo che insomma ce ne sono ancora, anzi io sono per la salvezza dell'uomo italiano. Donne, salviamone la specie, teniamocene uno in casa, curiamolo, nutriamolo, teniamolo lì in gabbia, lo facciamo correre sulla ruota, però salviamoli questi maschi italiani. Va bene, Dania, io ti ringrazio per essere stata con noi. Quando esce il tuo romanzo? Il 30 agosto, via Chanel numero 5. Ah, ok, va bene, grazie Dania ciao, per essere ciao, stata ciao. Con noi, a presto. Devi pensare a Maria come un detective pensa all'assassino. Non l'ha mai visto, ma sa che deve imparare a vedere il mondo con i suoi occhi. Detesta le fiabe, ma sogna ancora il principe azzurro. Beh, l'ha trovato, eh? Ascoltala sempre, non con l'aria di uno che ascolta intanto sta pensando ai fatti suoi e fa solo di sì con la testa, cosa ho detto? Sì con la testa. E questo era un film con Scamarcio, L'uomo perfetto. In effetti io questa scena mi è piaciuta, perché noi in realtà da una parte ci piacerebbe avere qualcuno, qualcuna soprattutto in questo caso, che ci spiega e ci racconta come conquistare la donna. È un classico il tentativo di trovare un'amica della donna che ci spieghi come fare, cosa le piace, cosa non le piace, ma poi alla fine è una gran faticata, quindi diciamo la verità, ci si prova un po' così. Allora, 800240024 o soprattutto anche gli sms 349-238-6666 per dirci che maschio italiano dovremmo scegliere. Poi c'è anche Facebook, abbiamo una pagina su Facebook che si chiama Italia Vista dallo Spazio. Se non vi siete ancora iscritti, insomma, dico io, non mi sembra veramente il caso di stare ancora a tentennare. Che cosa? Allora, abbiamo un ascoltatore, sì, non capivo il gesto. Abbiamo Carlo da Vicenza, un uomo, diceva Marisa Lorito una volta. Pronto, benvenuto. Sì, buonasera, no, stavo ascoltando, divertito. Ecco, allora, un italiano da mandare sullo spazio, secondo me, è Gualtiero Marchesi. Secondo Perché? Me, in tutto questo marasma degli italiani di oggi, ecco, soprattutto conosciuti all'estero, credo che rappresenti, oltre alla cucina italiana, che sicuramente è un gran biglietto da visita, anche un sinonimo di eleganza e di creatività. Ma è un uomo di una certa età, lo possiamo considerare, le donne se lo accattano, come si dice in questi casi, cioè la sopporterebbero questa scelta? Beh, guarda, alle donne lascio gli attori. Vabbè. Penso sino a dopo, Dio, ognuno sceglie, anche le donne, penso che a livello intellettivo Gualtiero Marchesi, piuttosto che, non so, non faccio nomi perché ma qualcuno si offende, se deve rappresentare l'italianità, Gualtiero Marchesi attualmente, perché tra l'altro hai detto prima una cosa molto giusta, tra i viventi, ed è importante perché nel passato, insomma, sì, ne sì, ma io sono d'accordo che se riusciamo a salvare dello spazio qualcosa di oggi, siamo messi bene. Grazie per essere stato con noi. Leggo due sms, poi prossimo alla prossima ospite. Gino Strada vota Nicoletta, e Ilaria vota Luigi Tenco, che invece non è un vivente. C'è sempre un problemino che io vi devo ricordare, che nello spazio ci mandiamo le persone che ci piacciono, perché non si è firmato, mandiamoci Berlusconi, che secondo me può essere una scelta come maschio italiano, però se poi aggiungi almeno se lo sopportano anche gli alieni, no, dobbiamo mandare nello spazio le cose che ci piacciono. Allora, abbiamo con noi una scrittrice, è un medico, ma è anche una scrittrice, ha pubblicato da poco un libro che si chiama Sul mio corpo, e Sonia Rottichieri, benvenuta. Buongiorno Achille, buongiorno a tutti. Allora, il romanzo è un romanzo, possiamo dirlo, erotico, anche abbastanza forte. Parla di una donna che si lascia sottomettere da un uomo e scopre questa forma di sessualità, diciamo spesso negata, ma che almeno dal punto di vista letterario attizza molto in questo periodo. Dico bene? Sì, dici bene. Effettivamente parla appunto di una donna che attraverso la sottomissione nei confronti di un uomo, riesce comunque a scoprire quella che è la sua vera personalità, i suoi veri desideri, e ad accettarli anche. Quindi è un romanzo erotico, però è anche un romanzo, a me piace definirlo un romanzo d'amore verso se stessi, perché comunque questa donna compie un percorso attraverso l'incontro con questo uomo, il padrone, e attraverso anche l'incontro con altri due uomini. Uno, diciamo, che è proprio la parte negativa dell'uomo, e l'altro una parte apparentemente più positiva. Ecco, poi non voglio dire nient'altro, perché sennò tolgo il piacere della lettura e anche della sorpresa. Io penso, diciamo, che però questo, diciamo, un libro come questo, insomma questo genere, non tolga niente al nostro essere in crisi, perché tanto se un uomo sottomette la donna è sempre perché comunque è in crisi e dice almeno la sottometto a letto. Ho questa impressione, sbaglio? Esatto, ma infatti è proprio questo il punto, cioè che l'uomo riesce a rapportarsi alla donna attraverso la sottomissione, cioè la donna fa paura perché comunque ha raggiunto dei livelli di indipendenza, di capacità che fanno paura agli uomini, quindi c'è questo tentativo, diciamo, da parte dell'uomo di schiacciarla, di sottometterla, non solo sessualmente ma anche intellettualmente, psicologicamente e anche fisicamente. Qui sta la parte, diciamo, più brutta. Io ho questa domanda adesso leggera molto, cioè, poi ti chiedo la tua scelta. Non ho letto 50 sfumature di grigio, ma so che si tratta di un miliardario. Ho iniziato a leggere il tuo libro, insomma ho letto questa casa enorme, stanze su stanze, ma uno povero non la può sottomettere, uno con la panda, uno con uno scooter scassato, non la può sottomettere una donna? Allora, la sottomissione può essere una cosa mentale, non dipendere, diciamo, dalla condizione economica, però tieni conto che nei libri è bello anche sognare comunque, quindi cioè proporre qualcosa, diciamo, che non si vede tutti i giorni, non si trova tutti i giorni. Quindi quello che sottomette è comunque un principe azzurro? Sì, è comunque un principe azzurro, anche perché secondo me, e non solo secondo me, anche sentendo pareri di amiche, di persone che conosco, comunque così, da parte della donna c'è anche un bisogno di essere accudita, di essere curata. Sono le donne che hanno sulle spalle tutto tutta la fatica della casa, dei figli, del lavoro, della gestione familiare, quindi le donne hanno bisogno di essere accudite. Il padrone, anche diciamo benestante economicamente, che accudisce alla donna, come nel mio romanzo, no, attraverso la sottomissione, ha un certo fascino, questo è indubbio. Sonia, devo chiederti qual è la tua scelta a questo punto. La mia scelta è Rosario Fiorello, che non vedo per niente nella parte di quello che sottomette. No, però a me piace molto, è una persona per cui ho una grande ammirazione, perché è una persona che si è costruito da solo, innanzitutto ha fatto la gavetta, ha fatto degli errori nella sua vita, ma li ha ammessi, è riuscito a tirarsi ancora in piedi e meglio di prima. Poi è una persona che non ha mai utilizzato le donne come figurine che non sono capaci di parlare o di interagire con lui, ha una famiglia, è una persona che ha anche ammirazione per le donne di un certo livello, col cervello e con la testa, quindi a me piace moltissimo. Poi un uomo siciliano, quindi anche un uomo capace di corteggiare, di essere galante, e quindi io mando lui nello spazio. Direi che piace il talento, così a occhio, andando diciamo sulle vostre scelte. È un bell'uomo, sì, Fiorello, sì, sì, sì. No, uno brutto, oddio, poi forse uno brutto ancora non l'ho visto. Oddio, no, c'era l'ascoltatrice di Sallusti, quello mi prendo questa responsabilità di dirlo. Grazie a Sonia Rettichieri di essere stata con noi. Ricordo il romanzo Sul mio corpo con Aliberti Editore. Noi andiamo a chiudere e io osservavo alcuni sms. Nino Manfredi, c'è un voto per Nino Manfredi. Rosa vota Raul Bova, c'è un voto per Troisi, c'è un voto per un altro per Giulio Cesare. Beh, vedi, non è proprio evidente questo. E poi un sms che mi piace molto, uno che voleva ringraziare Dania perché lo ha fatto sentire sexy, firmato Un Balbuziente. Grazie a tutti voi di averci seguito, ringrazio Valerio Rocchetti, la parte tecnica, Annalisa Migliaccio in redazione, Antonella Migliaccio, vedi, vado, leggo e sbaglio. Grazie a tutti da Achille Corea. Torniamo domani alle 16:30. Questa era l'Italia vista dallo spazio. Posto numero 14. In attesa di assegnazione. Inviate messaggi e preferenze a italiavistadallospazio@radio24.it.